Trova tutti e kol hakavod al Bet Midrash, a tutti quelli che si danno da fare per studiare e per far studiare. Allora volevo vedere con voi un pochino un testo sulla tefilà, ma sulla tefilà a livello approfondito, comprensibile a tutti. È un testo che si chiama Shoresh Mitzvah Tefilà, cioè la radice della Mitzvah della Tefilah. Il testo è stato scritto dal Rabbi Menachem Mendel Schneerson, che si chiama col nome Tzemach Tzedek, cioè il terzo Rebbe di Chabad, nipote dell'autore del Tanya. Il nome Tzemach Tzedek viene dalla sua opera di Halakha, Shelot Vetshuvot, risposta halachica, che è molto citato in ambito di Poskim di Halakha. E invece questo testo qui è tratto da un'opera che si chiama Derech Mitzvotecha, e cioè spiegazione cabalistica e interiore profonda delle mitzvot, in particolare una sezione specifica sulla tefila. Sono 49 capitoli, vedremo insieme l'inizio, poi magari se Dio vuole ci può essere un seguito, se vorrete, e si potrebbe anche andare avanti. Questa opera lui la scrisse quando era in realtà ancora molto giovane, prima di 20 anni, e si racconta che quando suo nonno, lui lo tenne nascosto, cioè non lo divulgò, per umiltà, per modestia, non lo dimostrò neanche ai suoi maestri. Il suo più importante maestro era il suo nonno, Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, Shulchan Aruch Harav, però in qualche maniera gli arrivò questo testo al nonno. Si dice che quando vide questo testo disse la Berakha di Shecheyanu, per quanto era preso dall'importanza e dalla profondità di questa cosa che ha scritto suo nipote. Allora vediamo il testo, se ce l'avete qualcuno di voi, se no lo leggo e lo traduco. Iniziamo a vedere Beshoresh mitzvah tefilah. Per ciò che riguarda la radice della mitzvah della tefilah, yesh machloket ben aposkim, c'è una discussione tra i decisori di halakha, tra i poskim, e parliamo dei poskim sui più alti livelli, cioè come Rambam, Maimonide, e come vedremo alcuni altri che citeremo qui, im hu mitzvata semi deoraita o miderabanan. La mitzvah della tefila è una delle 613 mitzvot della Torah, deoraita, oppure la mitzvah della tefila è forse una mitzvah derabanan, cioè una mitzvah istituita dai chachamim. Questa cosa, questa domanda non è una domanda semplice, infatti, come abbiamo detto, i più grandi poskim, più grandi decisori di Halakha nella storia, discutono proprio su questo punto qua. Vediamo un po'. Moshe Uva Besefer Achinuch, Mitzvah Taflamed Gimel, uno dei maestri che elenca le mitzvot, si chiama Sefer Achinuch, e anche Rov Monea Mitzvot, lui cita che la maggior parte dei maestri che fanno un elenco delle mitzvot, che abbiamo alcuni elenchi di mitzvot importanti, che noi sappiamo che le mitzvot sono 613. Questo i Chachamim ci hanno insegnato, anche nella Gemara viene riportato che le mitzvot sono Tafresh Yud Gimel, cioè 613 mitzvot. Ma nella Gemara non c'è un elenco di quali sono le 613 mitzvot. E se noi apriamo la Torah e iniziamo a contare mitzvah per mitzvah, possiamo arrivare anche a più di 613. In altre parole, dobbiamo capire quali sono le definizioni che fanno sì che una cosa che è scritta sulla Torah sia considerata una delle 613 mitzvot, e quali invece, quando non c'è, anche se sembra ci sia un'indicazione, fai questo, non fai questo, comunque non entra nell'elenco. Chi può fare questo? Sicuramente non persone semplici come noi. Nelle generazioni ci sono stati grandissimi chachamim, come ho citato prima Rambam. Maimonide ha scritto un'opera dedicata a questo lavoro qui, che si chiama Sefer HaMitzvot, il libro delle mitzvot, cioè è un libro dove lui fa una lunga introduzione per spiegare quali sono i criteri per essere considerata una delle 613 mitzvot, e poi le elenca secondo la sua visione. E questo libro è stato anche tradotto in italiano da Mosè Levi, e tutti possono vedere Sefer HaMitzvot e Rambam. Altri maestri che elencano le mitzvot giorno sono Sefer Mitzvot Katan, che è una versione, diciamo così, abbreviata di un'opera dello stesso nome ma con il termine Gadol, Sefer Mitzvot Gadol, Rabbi Moshe Mikusi, che è uno dei grandi maestri del tempo dei Tosafot, che anche lì c'è un elenco delle Mitzvot. A Rashbat ci sono diversi maestri che hanno elencato le Mitzvot e hanno scritto che per ciò che riguarda la Tefilah non rientra nell'elenco delle Mitzvot, non perché non rientra nel criterio delle Mitzvot che fanno parte delle 613, ma perché proprio non è una Mitzvah della Torah, è una Mitzvah dei Chachamim. E lui sono arrivati alla conclusione da Tefilah bechol yom, il fatto di fare Tefilah ogni giorno, ve'annusach ha-Tefilah, e il rito, cioè il testo che noi recitiamo nella Tefilah, hu Mitzvah midrabbanan. In altre parole hanno detto, nella Tefilah ci sono due cose. Quello che, noi, che è il libro, i testi che noi recitiamo, il rito e il fatto di doverlo fare tutti i giorni, queste due cose sono state indicate dai nostri Chachamim. Ma c'è un aspetto, invece, secondo loro, nella Tefilah, che è sì della Torah. E qual è? Ach mi deoraita hu ha-mitzvah, c'è alla base della Tefilah una mitzvah della Torah, e qual è? Sheit palel ha-adam vivakesh, che l'uomo preghi e richieda davanti ad HaKadosh Baruch Hu, be'et min ha-itim, in qualsiasi momento, asher yitzarech ledavar min advarim, che abbia bisogno, abbia l'esigenza di qualsiasi cosa, che mo be'etzara, come può essere in un momento di difficoltà, ve'kayotze o simile, asi mitzvah tase midoraita. Allora in quel momento è una mitzvah della Torah. Cioè, nella Torah, una dei 613 mitzvah della Torah è che se tu hai un'esigenza la devi richiedere ad HaKadosh Baruch Hu. In parole semplici. Ma non è indicato un orario, un giorno e un modo di fare questa richiesta. Tutte queste indicazioni qui, tra virgolette secondarie, sono indicate dai Chachamim. E però l'idea che quando tu hai un'esigenza, hai bisogno di qualcosa, ti devi rivolgere ad HaKadosh Baruch Hu, questo è, rientra in una mitzvah della Torah, mitzvah de Oraita. Una domanda, ma dove viene fuori, dove viene fuori questo fatto di dove che è il fatto delle motere che c'è a Carot? Tal? Le nostre madri che hanno a Carot, che hanno... Ok, questa è... Potrebbe essere una fonte, però i poskim non si appoggiano solo a questo. Perché? Perché questo è prima di Matan Torah. Prima che fosse data la Torah può essere un'indicazione, ma non può rientrare nei 613 mitzvot. Infatti anche la Milah, che è stata data ad Avram Avinu, allora il Rambam scrive, noi la Milah la facciamo non perché Avram Avinu è stato detto di fare la Milah, ma perché Moshe Rabbeinu sul Monte Sinai, tutto deve partire da Matan Torah. In realtà credo che la fonte sia nel Sefer Devarim, è scritto va reotem bachatzotzrot, quando c'è la tzara tzorer etchem, quando state in una tzara, e lì si parla nel contesto specifico di una guerra, nel Kitetze se non sbaglio, no? Allora va reotem bachatzotzrot, dovete rivolgervi ad HaKadosh Baruch Hu in tefilah e con shofarot eccetera, e per come? E in Be'alotecha? Sì, no, c'è Chatzotzrot in Balotecha, però credo che lì si parla in contesto diverso. Però, ok, va bene, può essere che sbaglio. Quello che volevo dire è che lì si parla nello specifico, in contesto, di se tu ti trovi in una tzara, in una difficoltà, allora ti rivolgi ad HaKadosh Baruch Hu. Allora la maggior parte dei poskim dicono questa è la mitzvah de oraita. Poi il fatto di avere degli orari indicati, dei giorni e anche delle formule, questo è un attaccanami della banana. Questo è stato istituito dai Chachamim. Ok? Allora, se ci vanno Hashem Itbarach Baze, una mitzvah che Kadosh Baruch Hu ci ha comandato, se ivakesh adam ze mimeno itbarech levad shi yoshio al ze. Cioè qual è la mitzvah nello specifico? La mitzvah è tu ti devi appoggiare solo da Kadosh Baruch Hu. Quindi se hai una difficoltà devi rivolgerti a lui. Certo, poi si apre tutta un'altra parentesi, cioè è chiaro che Kadosh Baruch Hu vuole che tu ti aiuti anche da solo, nel senso che segui anche le vie naturali che servono nel caso specifico della difficoltà per superare quella difficoltà, però sapendo che tutto parte da Kadosh Baruch Hu e che lui poi, come adesso vedremo, lui poi decide se quelle vie naturali funzioneranno o non funzioneranno. In altre parole, se uno mai si ha un problema medico, allora prima cosa si deve rivolgere a Kadosh Baruch Hu, che lo aiuti. Poi è chiaro che deve andare dal medico, è chiaro che deve seguire le cure. Questa cosa in realtà, questa idea qui, della mitzvah, della tefilah, al suo cuore così com'è, dalla Torah, cioè quando tu hai un problema ti rivolgi ad Akadosh Baruch Hu, è una delle radici della emunah in generale, della nostra fede in Akadosh Baruch Hu, in quanto vehu lefi shaliedei ze, è proprio tramite questo atteggiamento, che non è più solamente un precetto, succede questo, devi fare questo, come una cosa tecnica. No, è un atteggiamento, è una mentalità, è un modo di pensare. Se yedav yavin, che l'uomo sappia e capisca, Hashem yitbarach ulevado amanig olamo, che è solo Hashem che gestisce la realtà, che gestisce il mondo, un mashgiach bechol pratei briotav, e è presente, supervisiona ogni dettaglio di tutto ciò che accade con le sue creature, e che lui è l'unico che ha la possibilità e la fattibilità di aiutare, di salvare, eccetera. Come scattava Rambam be Pirusha Mishnayot be Sanedrin, be Mishnat Kol Yisrael Yoshem Chelek, be Ikar HaMishi, mina Yud Gimel Ikarim Shelo. Questa idea qui di come la tefilah rientra proprio come una delle radici forti, una delle basi della Emunah in generale, è un'idea che a lungo spiegata ed approfondita dal Rambam nella sua opera di commento alla Mishnah, in particolare il trattato di Sanedrin, dove lui è come se ci fosse una opera dentro l'opera, dove lui ci sono i famosi Shmone Prakim, otto capitoli di introduzione all'ultimo capitolo di Sanedrin, Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, questo è l'inizio dell'ultimo capitolo di Sanedrin, e dove lui spiega i famosi 13 Ikarim, 13 basi della Emunah, su questo si basa il canto di Yigdal, Elohim Chai, Vishtabach, che non è scritto da Rambam, ma si basa sulle 13 basi della fede da lui esposti, e lì approfondisce questa idea qui. Ve'alpise Pashut Hu, secondo quanto abbiamo visto finora, anche se in maniera molto breve, risulta semplice che mitzvata tfila e inami uchede daika lechol asher un mekorave omed lifne Hashem che tzadikim e kayotze. Da qui possiamo capire bene che come tutte le mitzvot della Torah sono per tutti gli ebrei, non abbiamo qualcuno che diciamo tu fai le mitzvot e noi ti stiamo dietro, anche per la tefila è così, la mitzvah della tefila non è data solamente a persone che hanno una grande vicinanza, diciamo così, grandi tzadikim che sono così vicini ad Akadosh Baruch Hu, o che hanno un canale proprio diretto e aperto, no, e la gam lechol mi she tzarich le bakasha. Qualunque persona, qualsiasi persona che abbia una richiesta, ha una mitzvah, mitzvah ta se, ha una mitzvah positiva da rispettare, she ivakesh bakashatom Hashem Yitbarach, che lui si rivolga con la sua richiesta direttamente ad Akadosh Baruch Hu. Ora uno si chiede, funziona? Upeamim yekubal veyimula bakashato, upeamim lo, a volte sarà accettata ed esaudita la sua richiesta e a volte no. E come dice, fa una piccola metafora, una metafora, rezek mol derech mashal, si può fare un mashal, una metafora. Amoser bakasha le melech basar vadam. Se uno porta una richiesta davanti a un re di carne ed ossa, umano, sheyuchal kol ishlim sorlo bakasha, è chiaro che la richiesta la possono fare tutti. Af mi pchutei aerech meod, anche se si tratta di un suddito dei meno importanti in assoluto, magari una persona di strato molto molto basso della società e così via, però la richiesta la può fare. La risposta però non è detto che ci sia. il fatto di esaudire la richiesta. Efsharshim alea melech mishalotav, è possibile che il re esaudisca le sue richieste, perché miteva tove a chesed shel melech lishmo adaika el hashverim, può darsi che sia un re di natura buona che vorrebbe esaudire appositamente proprio le richieste di chi è più in difficoltà, di chi è meno visto in riguardo dalla società. Allora lì magari ha ancora più misericordia e esaudisce la sua richiesta e risponde alla sua domanda in maniera positiva. Però può darsi che non sia così. E tra l'altro il punto che vuole dire con questo mashal en la yeches zot elinyan haitkarvut varichu klal, il fatto di avere esaudita la richiesta, di far sì che sia esaudita o no, non dipende dalla tua importanza, non dipende dalla tua vicinanza o lontananza. Kim bevakashak la liut bedavar gadol, questo dice eccezione se la richiesta riguarda una cosa grande, cioè non è la richiesta di una persona specifica, di un problema specifico di una persona, ma è una richiesta che riguarda un'intera comunità, un'intera generazione, un problema diciamo di volume importante. Allora lì dice può darsi che dipende da chi fa la richiesta, da come la richiesta è fatta. Infatti troviamo nella Gemara, quando c'erano problemi di carestia, mancanza di pioggia eccetera, cosa facevano i Chachamim? Mandavano in Teva una persona che era considerata da tutti tzaddik. C'è una storia con Rabbi Akiva, con altri Chachamim, che mandarono queste persone a pregare con Yama Agel. Ci sono tante storie nella Gemara di questo genere qui. Questo per una cosa, per la collettività, che coinvolge un pubblico. Invece per una cosa personale o privata, valloli pratei zorche adam, se è una cosa che riguarda una persona, allora la persona non deve pensare, beh, io non sono una persona così importante spiritualmente parlando e allora è inutile che faccio tefila, in altre parole è inutile che faccio la mia richiesta. No, non esiste questa differenza. Ognuno ha questa mitzvah e ognuno deve considerare che HaKadosh Baruch Hu considera la sua richiesta nella stessa maniera come qualsiasi altra persona. Quindi solo nel caso in cui chiede per altre persone o per una comunità, là entra, può entrare in gioco il fatto se sia un tzaddik o meno. Sì, non, lo dice solo come parentesi e non entra, però dice, vedi, chi imbe vakasha klalit bedavar gadol, allora può incidere questa cosa. E infatti cosa diciamo nella tefilah? Pinyana tefila shemit falelim e lavum vakshim mimenu hu shomea tefilat kolpe. Noi nella tefila lo diciamo questo, nella midah quando diciamo shma koleinu, ascolta la nostra voce, alla fine prima di dire baruch ata, cosa diciamo? Ki ata shomea tefilat kolpe. Tu sei colui che senti, ascolti la tefila di ogni bocca, di ogni persona. Zan, spiega. No, nel senso che molto spesso, a me capita molto spesso, di pregare automaticamente, certo, senza metterci il cuore. Quando tu comunque sia, ascolta te filà colpe di ogni bocca, anche se non c'è il cuore dentro, anche se non è stato fatto con tutto il cuore. Zan, molto bene. Allora, avendo visto questo aspetto più, diciamo così, tecnico, cioè come, dove si colloca la mitzvah della tefilà nell'insieme delle mitzvot, abbiamo visto che possiamo fare una via di mezzo tra una mitzvah de oraita e una mitzvah de rabbanane, cioè il fatto di dover chiedere le nostre esigenze da Kadosh Baruch Hu è una mitzvah della Torah secondo la maggioranza appunto dei poskim, e invece i dettagli tecnici di come si gestisce questa mitzvah, cioè gli orari, i giorni e le modalità e le formule, sono invece istituite dai Chachamim, sono delle mitzvot de Rabbanan. Ora entriamo un pochino più in un aspetto quasi cabalistico, però non vi spaventate, vediamo di capire piano piano insieme alcuni temi. Vinele avin meat miseri niana tfilah, per capire un po' di una minima misura di ciò che è la tefilà nel suo senso profondo. Yadua biperi etzchaim, c'è un'opera che si basa sulle parole della Rizal, cioè Kitvei HaRizal, le parole che ha scritto Rabbi Chaim Vital, che era uno degli allievi, maggiori allievi del maestro della Kabbalah Ari, che si chiama Pri Etz Chaim, e lì spiega Efresh ben Kriyat Shema Litfila. Ora, quando noi diciamo Tfila, la prima cosa che viene in mente è tutto l'insieme della Tfila, no? In realtà non è così. Quando noi abbiamo fatto, grazie a Dio, stamattina Shacharit, o ieri sera Arvit, in realtà quello che noi chiamiamo Tfila è un insieme di vari elementi. E due elementi più importanti, centrali, sono Tefila, e per Tefila, quando noi apriamo la Mishnah o la Gemara e troviamo la parola Tefila, è un riferimento alla Amidah. Non è un riferimento al libro e non è un riferimento a tutto il rito e tutta la formula intera. È un riferimento alla Amidah. Infatti noi abbiamo parlato della mitzvah di chiedere le nostre esigenze da Kadosh Baruch Hu. Cosa facciamo nella Amidah? Questo. Guarda la traduzione della Amidah, cosa vedi? Dammi un buon anno, dammi una buona parnassà, dammi una salvezza, dammi la libertà, dammi l'intelligenza. Ognuno fa le richieste delle esigenze di ogni persona. Questa è Tefila nel senso stretto. Che altro facciamo in quella esperienza che noi chiamiamo Tefila? L'altra cosa centrale, la mattina e la sera, ovviamente, e quando c'è la mitzvah, lo Shema. Lo Shema non fa in realtà parte di Tefila. Lo Shema è un'altra mitzvah distinta. Se sulla Tefila ci può essere una discussione, se è Deoraita o se è Drabbanane, una parte Deoraita, una parte Drabbanane, come abbiamo visto, sullo Shema non c'è nessuna discussione. C'è una mitzvah della Torah, una mitzvah Deoraita, di leggere due volte al giorno lo Shema. Questa è la mitzvah di Kriyat Shema. Intorno allo Shema abbiamo le Berachot dello Shema. Le Berachot dello Shema in realtà partono come qualsiasi altra mitzvah che ha una Berachà relativa a quella mitzvah. Prima di mettere i tefilin c'è la mitzvah, c'è la berachà che precede il mettere i tefilin, e prima e dopo lo Shema è accompagnata la lettura dello Shema con delle berachot. La mattina due prima e una dopo, la sera due prima e due dopo. Questa è la mitzvah dello Shema, non è tefilà. Buongiorno. Allora dal punto di vista del Pri Etz Chaim, della Rizal, cioè qual è la differenza nello schema spirituale delle cose tra la mitzvah dello Shema e la Tefila? E qui usa dei termini cabalistici. Shal yedei kriyat Shema nase yichud abba ve ima, val yedei tefila nase yichud dezeer anpin ve nukva. E concludo solo il paragrafo. Fisce Yichud de Abba Vim on Ale Yoter, lachen mitzvat Kriyat Shema gedola yoter, ad shafilu misho torato umanuto chayav b'Kriyat Shema afal pishe patur min tefila. Allora, fa presente una differenza di halakha interessante tra tefila e Kriyat Shema. Cioè, se noi studiamo sulla Mishnah, in particolare sulla Gemara di Berachot, e poi chiaramente nello Shulchan Aruch, vediamo che cosa succede se una persona non ha tempo per fare tutta la tefila, ma non perché non ha tempo, perché deve andare a lavoro, perché rientra in una categoria molto particolare e molto molto esclusiva di Torato Umanuto. Vuol dire la Torah è la sua carriera, è il suo lavoro. C'è scritto nella Gemara di Brachot che questa è una categoria molto limitata, molto esclusiva. Anche c'erano grandi chachamim che non rientravano in questa categoria. E un esempio che si fa di chi rientrava in questa categoria era Rabbi Shimon Bar Yochai, suo figlio Rabbi Elazar, che in particolare quando erano nascosti, si erano nascosti dai romani che volevano la testa di Rabbi Shimon, come sappiamo tutti la storia, e si nascosero in una caverna. E cosa facevano in quella caverna? Studiamo la Torah in tutti gli orari, senza interruzione. E chi rientra nella categoria di Torato Umanuto, c'è scritto, è patur, è esente da tante mitzvot. Perché? Perché chi si occupa di una mitzvah, la base dell'idea è che a osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Chi si occupa di una mitzvah è esente di un'altra mitzvah che potrebbe presentarsi. Allora tutti noi potremmo dire, va bene, abbiamo sempre la mitzvah di studiare la Torah, allora in qualsiasi momento potremmo studiare Torah e essere esenti da qualsiasi altra mitzvah. No, questo è solo per chi Torah Tomanotò, per chi prende seriamente questa cosa, perché magari fosse così per noi, però visto che perdi tempo con questo e con quello e con quell'altro, anche non perdi, ma hai altre cose da fare, giustificate e giuste, ok? Vuol dire che la tua Torah non può prendere il posto delle, di altre mitzvot. Studiare Torah è una mitzvah, no? Quindi di altre mitzvot. Però chi invece non rientra in tutto questo e davvero non ha un momento libero senza studio di Torah, potrebbe rientrare in questa categoria qui di Torah Tomanuto. E la Gemara discute, chi rientra in questa categoria deve comunque leggere lo Shema, deve comunque dire Tefilah, e dice diverso, non è la stessa cosa Shema e Tefilah. Per ciò che riguarda la Tefilah, chi Torah Tomanuto, chi rientra in questa categoria, patur, è esente dalla Tefilah. Tefilah, traduzione, Amidah. Chi invece sempre rientra in questa categoria, comunque per ciò che riguarda lo Shema, Hayav, ha l'obbligo di dire lo Shema. Significa, da qui possiamo dedurre, spiega alla base, cioè questo è il ragionamento alla base di quanto dice nel Pri Etz Chaim, che a livello spirituale nei mondi superiori ciò che si rispecchia dallo Shema è più elevato rispetto a ciò che si rispecchia dalla Tefilah. E per questo uno che rientra in quella categoria di Torah Tomanotò potrebbe non essere obbligato a dire Tefilah, ma non può essere esentato dallo Shema. Lo Shema è troppo elevato per poter essere esentati anche dallo Shema. Non c'entra, perché forse lo Shema è della Torah. Certo che c'entra. Certo che c'entra, adesso vedremo, assolutamente. A livello tecnico il motivo è quello che dici tu, che dice David, che lo Shema è una mitzvah de oraita e la Torah e la Tefilah è una mitzvah de Rabbanan, però ci sono anche mitzvot de oraita che chi Torah Tomanotò può essere esente. Allora sì, lì da questo vediamo che questa cosa è più elevata di quella in un certo senso, però nello specifico qual è la dinamica tra Tefilah e Kriyat Shema, cioè tra Amidah in particolare e Kriyat Shema, spiega con termini cabalistici che adesso non preferisco non entrare perché sarebbe solo tanto tempo per spiegarli. In termini cabalistici dice che a livello spirituale lo Shema sta su un livello più elevato rispetto alla Tefilah, rispetto all'Amidah. Però dice c'è anche un diciamo così un vantaggio tra virgolette, cioè qualcosa che la Tefilah, che c'è nella Tefilah, che non c'è nello Shema, ok? Cioè ogni cosa ha un pro e un contro tra virgolette, no? Qual è la forza che ha la Tefilah che lo Shema non ha? Allora si può evincere questo dal modo in cui la Halakha ci dice ci poniamo in Tefilah e ci poniamo in Kriyat Shema. Anche se guardiamo lo Shulchan Aruch è scritto che la Amidah ovviamente si fa in piedi, infatti si chiama Amidah per questo, stare in piedi, e lo Shema sarebbe meglio farlo da seduti. Omnam mikol makom yesh mala yetera batfilah shei ba'amidah. Il fatto che la Tefilah sia fatta in piedi, la Amidah, è indicativo. Anche questo è indicativo di qualcosa che avviene nei mondi spirituali, nei mondi lemala, in cielo. Il fatto che sia Ba'amidah, il fatto che sia in piedi, indica Sheseu Ba'atzilut, indica un livello molto elevato che si chiama Atzilut, l'emanazione dal divino. Ma Shenkena Kriyat Shema Shei Meyushav Fishi Adain Baberia. Si parla di quattro mondi, cioè di quattro fasi dell'esistenza prima della creazione vera e propria di questo mondo. E vi dico i nomi: Atzilut, Beria, Yetzirah, Asia. Atzilut significa un'emanazione. Etzlo. Etzlo. Toda. Etzlo, Etzel vuol dire vicino a. No? Perché come dire, questo è il livello più vicino, tra virgolette. Infatti lì non si usa un termine di creazione, perché creazione significa creare qualcos'altro, è all'esterno di te. Invece l'emanazione è qualcosa che in qualche maniera si estende da te, è sempre legato a te. Dove troviamo nella Torah il termine Atzilut? Quando Moshe Rabbeinu nomina i 70 Chachamim per formare il primo Bet Din Agadol, il primo grande, così dire, sinedrio, e c'è scritto Ve'atzalta minaruach, Ve'atzalti minaruach, io a Kadosh Baruch Hu farò emanare dallo spirito che ho dato a te, quindi questa Kedushah che io ho dato a te, la farò estendere, non nella stessa maniera come ce l'hai tu, in maniera minore, però da te sarà estesa verso tutti questi altri che a loro volta diventano Nevi'im, diventano profeti, perché questo spirito di Kedushah investe anche loro. Quindi è come un qualcosa che viene esteso, ovviamente non ha la forza dell'originale, però ha qualcosa dell'originale, non è un distacco. Per questo si chiama Atzilut, vicino a. E la prossima fase si chiama Beriah. Beriah significa proprio creazione, anche se ancora stiamo parlando nei mondi spirituali, non creazione fisica, ma è già una fase che prevede, per così dire, un distacco, qualcosa di nuovo. Bria, creazione, significa una nuova creatura che prima non c'era, una nuova fase. Poi abbiamo il terzo mondo, la terza fase si chiama Yetzirah, e Yetzirah vuol dire formazione, che questo è ancora più limitativo. Formare vuol dire dare dimensioni, vuol dire dare aspetti che prima non c'erano, che sono limitativi. E poi finalmente Asiyah, l'azione, cioè il mondo dell'azione, che è questo mondo, che è questa nostra realtà. Allora la Kabbalah dice la Tefilah giunge dal mondo della Atzilut. Fare Tefilah, fare Amidah è qualcosa di molto elevato, che nello schema spirituale delle cose si lega alla prima emanazione in assoluto da Kadosh Baruch, quello che si chiama cabalisticamente il mondo di Atzilut. Mentre Tefilah mentre la Kriyat Shema, la lettura dello Shema, è legata al mondo della Beriah, il mondo della creazione, quindi un livello inferiore rispetto all'Amidah. E questo è indicato alachicamente nel fatto che l'Amidah si fa in piedi e lo Shema si fa seduti. Qui c'è anche un remes, fa una allusione, c'è scritto Mimoshevotechem taviu lechem tenufa, c'è scritto sulla Torah riguardo la mitzvah della challah. La challah è quell'impasto che noi portiamo e viene dato al Kohen, e la Torah usa il termine lì, Mimoshevotechem, dalle vostre abitazioni, dai luoghi in cui risiedete, no? Come si può tradurre? Sì, ecco, però letteralmente Yeshiva stare seduti, no? Allora, cabalisticamente il fatto che lì si usa un termine vicino a Yeshiva, seduti, indica un legame tra il star seduti e la mitzvah della, lì in quel caso si parla della challah, che si lega sempre cabalisticamente al mondo della Beriah. Quindi c'è questo remes, questa allusione tra lo Shema e la Beriah. Sì. Chazak, e Abraham stava seduto davanti alla tenda. Lo Shema seduto. Ok, fino adesso è chiaro? Sì. Si può andare avanti? Io non ho capito Mimoshevotechem. Mimoshevotechem effettivamente non lo spiega qui, però fa riferimento a un'altra fonte dove si spiega che dove si colloca nel mondo lemala il concetto di Mimoshevotechem, Beolama Beriah, nel mondo della Beriah. cioè questi si stanno seduti quando si fa qualcosa che riguarda il mondo della Briyaj. No, sì, sì, sì, quindi quello è legato al mondo di Briyaj. Si usa il termine Moshe Vot, che è vicino a Yeshiva, e un remez allo Shema, che è anche legato al mondo di Briyaj, e anche si fa a Yeshiva. È una connessione di remes. Una domanda, la Shekhinah sì? in che mondo sta? Come? La Shekhinah. Oh, questa è una domanda molto molto importante. Dove si colloca la Shekhinah? In realtà la Hasidut spiega che Shekhinah esiste in ogni situazione, in ogni mondo, in ogni fase, secondo il contesto di quella fase. Cioè Shekhinah sarebbe praticamente la parte più bassa di ognuna delle fasi. È come se corrispondesse a quello che si chiama la Sefirah di Malchut, la sfera di Malchut. Bassa, eh? La parte più bassa, perché? Shekhinah vuol dire? Prego. L'ultima fase della creazione, della sì? La presenza divina in mezzo a noi. Che vuol dire Shekhinah? Presenza. Shochen, che a Kadosh Baruch Hu, Shochen umitlabesh, sì. No? Si dice che risiede. Dovrebbe essere la parte più alta, no? Detto la studiaggine. No, è legata alla parte più alta, perché c'è scritto Sof Maaseh Bemachshava Tchila, anche nelle Chadodi cosa cantiamo, che alla fine ciò che esce fuori alla fine è quanto è stato nel pensiero in origine. Allora la fase finale è sempre legata alla fase originale. C'è scritto Na'utz Tchilatan Besofan Besofan Bitchilatan, vuol dire l'inizio è messo dentro la fine e la fine è messo dentro l'inizio. Tutto quello che c'è in mezzo è per arrivare a, ma il punto qual è? La fine. E quindi tu, quando hai un progetto in mente, quindi è inteso parte più bassa come parte finale. Esattamente, sì, bravissimo, bravissimo. Non basso, ma parte finale, giusto? Il mondo in cui noi viviamo, praticamente il nostro mondo è un mondo basso, ma noi non siamo il cielo. Esatto, esatto. Però questo è il motivo della creazione. Lo scopo è questo. Molto bene. Allora, andando avanti, dove siamo? Oh, Vine Kodem Shidver. Ok, allora qui fa un'introduzione molto importante che va fatta, non solamente per questo contesto qui, ma in generale per tantissimi contesti dove si parla soprattutto di mistica, di Kabbalah, ma anche al di fuori del mondo della Kabbalah molto spesso si potrebbero fare degli errori anche gravi quando noi usiamo certi termini riferendoci ad Akadosh Baruch Hu, che la Torah stessa e i Nevi'im, soprattutto i profeti, usano termini antropomorfici, come si parla della mano di Dio, l'ira di Dio, la gioia di Dio, il braccio di HaKadosh Baruch Hu, eccetera, eccetera. Quindi si usano termini che sono termini umani, e noi dobbiamo capire come affrontare questi discorsi, in particolare quando si entra nel mondo di Kabbalah, dei remasim, delle allusioni che vanno a far riferimento a cose spirituali usando termini materiali. Lì diventa molto pericolosa questa cosa, perché facilmente si può entrare nell'errore proprio di avere idee che sono al di fuori dell'ebraismo, che sono contrarie alle idee dell'ebraismo. Per questo si dice sempre, è molto importante, oggi abbiamo tantissime opere che all'origine sono opere di Torah, della parte cabalistica della Torah, però sono state tradotte in una maniera che possono indurre nell'errore e nel peccato addirittura, nel non comprendere bene come va compresa la cosa. E qui quindi fa questa prima introduzione, perché visto che è stato fatto riferimento prima a concetti cabalistici, che però di nuovo si usano termini che sono umani, non li ho citati perché non volevo entrare nello specifico, però per esempio abbiamo detto Yichud Abba Veima, unione tra padre e madre, Yichud Zavenukva, altri tipi di unioni. Cosa significa? Cioè i maestri della Kabbalah dicono che quando si fa una mitzvah si mette in atto un meccanismo nei mondi superiori, cioè in tutti i livelli della realtà. Io metto i tefilin qui in questo mondo e faccio una mitzvah mettendo i tefilin, ma non pensare che quell'atto di mettere i tefilin è limitato solamente a quel fatto di posare le aniach sul braccio e legare ukshartem sulla testa e sul braccio e lì finisce, no? Lì hai fatto scaturire, come con tutte le mitzvot, un meccanismo che arriva fino in alto e in ogni fase, diciamo così, di questa salita ha il suo effetto. I maestri della Kabbalah parlano di un yichud. Yichud vuol dire un'unione e usano la metafora di un'unione tra parte maschile e parte femminile. E questo chiaramente può far fare tantissimi errori e incomprensioni di cosa stiamo parlando. In realtà stiamo parlando di qualcosa di divino, di spirituale, che si lega alla Shekhinah. Shekhinah è un termine femminile, ok? Ci sono altri termini che sono termini maschili, perché? Per indicare che avviene qualcosa che porta un frutto, che ha un risultato. Però sono delle metafore e va capito che si tratta di metafore e non di una cosa letterale che può essere, e spesso, molto spesso e troppo spesso, è presa nella maniera sbagliata. Allora lui fa un'introduzione dicendo così: prima di entrare a spiegare cos'è questa unione di cui si parla, Yesh leakdim he'arachat, bisognerebbe anticipare una nota, le'afshit advarim migash miutan. Le'afshit advarim migash miutan significa spogliare le cose dalla loro materialità. Che è una frase bellissima, cioè tu dici una frase che indica dei termini che si riferiscono a cose materiali, però tu dovresti sapere le'afshit, spogliare la parte materiale delle cose e arrivare all'anima della cosa. Deine, milvada afshatai adu alla kol, oltre a ciò che si sanno bene tutti, che va spogliata la cosa, cioè va aperta e bisogna arrivare a qualcosa d'interno, se colma shi dibru a mekubalim, ogni termine che hanno usato i maestri della Kabbalah, i mekubalim, Vekinule locutoid barach berkea kinuima gashmim, e hanno usato delle parole per indicare diversi aspetti del divino, parole che sono, si riferiscono ad aspetti materiali anche del corpo umano, come rosh, come la testa, yadaim, mani, vraglaim e piedi, gambe, domehen, e simile, a kol mashalum melitza. Prima di tutto devi sapere, dice, che tutto questo è assolutamente una cosa metaforica. Mashal non è assolutamente inteso in senso letterale, chas ve shalom mai sia. Un mikra malektiv, ed è un versetto chiaro sulla Torah che è scritto, chi lore item coltemuna. Quando Moshe Rabbeinu nel libro di Devarim all'inizio parla con Am Israele e ripercorre la strada che hanno fatto dal momento che sono usciti dall'Egitto e fino al momento in cui si sono messi davanti al Monte Sinai, cosa c'era al Monte Sinai? Rivelazione. Ma lui condiziona subito Moshe Rabbeinu e dice chi lore item col temunah. Sì, c'è stata una rivelazione che tutto Am Israel insieme ha ricevuto la Torah e ha sentito a Aseret HaDiberot, ma non avete visto nessuna immagine. Lore item col temunah, una immagine del divino non è stata vista in quella, nonostante quella fosse una rivelazione, cioè un atto di nevuah incredibile, ma una immagine del divino neanche in quella situazione lì c'è stata, è stata vista, no? Lorite Kmosh Katuve, come è scritto Baidra Rabba, questa cosa nel uno delle sezioni del Zohar che si chiama Idra Rabba, approfondito questo concetto. Ora, cosa invece indicano sì questi termini? La mano, il braccio, la testa, cosa indicano? Ella Shehem Kochot Elokim, sono delle forze, cioè delle energie, delle facoltà divine, shenikreu ken, che vengono chiamati con questi termini perché fishehem mekor de mekor li tavut advarim agashmim shebolam hazeh shenikreu al shemam ken mosh katav beshalah, perché questi aspetti divini sono la radice, della fonte di ciò che poi si esprime in questo mondo in quella maniera. In altre parole, tu vedi la mano materiale, fisica, questa mano ha una sua fonte nel spirituale, nei mondi superiori. E non è una mano, è un tipo di energia, è una facoltà divina, è qualcosa di elevato. Che poi quando Akadosh Baruch Hu crea... Ho saltato? No. La domanda è, qua intende termini che si riferiscono a Akadosh Baruch Hu, sì, o termini in generale? No. Dice, i termini che si riferiscono ad Akadosh Baruch Hu... Sì, la Torah dice, Hasaf Hashem Zero Akocho, dice il profeta. Hashem ha svelato il suo sacro braccio. Oppure, Beyat Chazakah Bizro Netuyah, abbiamo detto stamattino, no? La tua mano forte, che vuol dire? Lui ha una mano? Sì. Certo che no! È una metafora, per dire cosa? Parte per farci spiegare a noi, allora, c'è il senso semplice della metafora, no? Quando dice, questo lo spiega il Rambam molto approfonditamente, soprattutto nel Morel Nevuchim, nella Guida dei Perplessi, e tra l'altro, se uno legge la Torah con la traduzione commento di Onkelos, la traduzione in aramaico, allora tu apri un Chumash, quasi tutte le edizioni della Torah hanno anche a fianco la traduzione, però la parola traduzione, Targum vuol dire traduzione, però è una parola che ci trae in inganno, perché Onkelos non è che traduce solamente, commenta pure, interpreta secondo la Torah Shebe'al Peh, cioè incorpora nella sua traduzione, interpretazione, il significato così come è stato trasmesso nella Torah orale nelle generazioni. E lui quasi sempre spiega un termine antropomorfico nella Torah, nel testo, lui cambia e mette il significato, cioè spiega qual è la metafora. Allontana il testo dal letterale per aiutare chi legge a capire che qui non stiamo parlando di una cosa letterale. Ognuno può guardare Targum Onkelos e guardare Beyad Chazakah Ubizrua Netuyah, per esempio. Ci abbiamo qui un Chumash? Grazie. E vediamo un attimino. Un buon Allora, solo per fare un esempio così, come Onkelos aggiunge... Allora, prima di Asia Shir Moshe, cosa diciamo? Vayosha, no? Vayosha Hashem Vayomahu et Israel Mi'al Mitzrayim. E il secondo versetto di Vayosha dice Vayar Israele Tayada Gedolah, e Israel vide la grande mano Asherasa Hashem be Mitzrayim, che il Signore fece in Egitto, cioè l'impatto che fece avere in Egitto. Vayiru Ha'am et Hashem, e il popolo ebbe timore di Hashem, vayaminu ba Hashem u be Moshe avdo, e crebbero, ebbero emunà in Hashem e nel suo servo Moshe. Ora, se tu guardi Onkelos, il Israel vide la mano di Hashem. Lui dice, Bachazai Israel, Israel vide Yad Gevurta, la forza Yedar Rabbatà, della mano forte. Cioè, distanzia, sul versetto non è scritto la forza della mano, il modo che Hashem ha agito. C'è scritto la mano di Hashem. E Onkelos aggiunge, loro non hanno visto la mano, hanno visto l'effetto, la forza, Gevurta, che non è scritto sul versetto. Sempre sullo stesso versetto c'è scritto che il popolo crede in Hashem. Anche qui Onkelos allontana il legame diretto, come è scritto sul pasuk, sul versetto, e dice vayaminu b'Hashem ve'eminu bememrad Hashem, hanno creduto allora nelle parole di Hashem, ubin viut Moshe, e nella profezia che Moshe riportò. In altre parole, lui spiega che vuol dire credono in Hashem e in Moshe. Dice no, adesso hanno visto la conferma di tutto ciò che Moshe ha portato come profezia, come parola di Hashem. Ora hanno creduto la parola di Hashem, non in Hashem, nella parola di Hashem che ora è stata confermata davanti ai loro occhi. Lui condiziona in maniera quasi totale in tutta la Torah, con poche eccezioni, ogni volta che c'è qualcosa diretto con Hashem e un'indicazione come mano eccetera, sempre allontana, per farti capire questa è una metafora e non è letterale. E questo è chiaro, cioè è una base nello studio della Torah, questa cosa. Quello che stiamo dicendo noi, entrando ancora più in profondità, è che c'è qualcosa oltre la semplice metafora. Cioè, vedendo lo semplice, hanno visto la mano di Hashem, cioè hanno visto gli effetti della forza di Hashem, ok? E questo possiamo dire è il senso. Ma ovviamente ci sono molti strati di significato. Andando oltre, approfondendo, c'è un altro aspetto che lui qui ci ha detto, e cioè che qui il Tzemach Tzedek dice che non è un caso che si parla della mano di Hashem e si parla della mano mia e tua. Non è un caso e non è solamente una metafora. Quella che è la mano mia e tua è qualcosa che esiste dopo una lunga fase, per tra virgolette uso questo termine, di evoluzione spirituale. Quel livello superiore che si rispecchia nella mia mano materiale si chiama mano. Questo dice qui. La mano, quando parliamo della mano del divino, non stiamo parlando di una mano come noi vediamo una mano, stiamo parlando di ciò che è la fonte della fonte della fonte della fonte della radice di ciò che poi si trasforma con la creazione da parte del Kadosh Baruch Hu in una mano materiale. La potenza divina, due parole. Potenza divina nella fonte. E poi questa cosa va, diciamo così, l'istalshelut, adesso spiegare tutti i termini cabalistici non è il momento, però c'è una discesa graduale fino ad arrivare a quello che noi vediamo fisicamente. Quindi è molto, è tutta un'altra mentalità. Ciò che noi vediamo in questo mondo, Shebaulam Azeh, Shenikreu al Shemamken, vengono, hanno questi nomi perché questi sono i nomi della fonte originale. In altre parole, esattamente il contrario del senso semplice. Il senso semplice dice, la Torah usa il termine mano perché noi non abbiamo altri termini che possiamo capire. Allora, dibra ha-Torah, kileshon bene Adam, dicono i Chachamim. La Torah parla il linguaggio degli uomini per farci capire, ma sono delle metafore, non c'è una mano. C'è la metafora che ci fa capire a noi che c'è stato un intervento. Ma il termine mano è un termine materiale, umano. La Kabbalah ci dice, sì, questo a livello semplice. A livello più profondo è il contrario. C'è qualcosa che si chiama Yad, che si chiama mano, nei mondi superiori, che poi con questa discesa graduale e contrazione della presenza divina e così via, che si nasconde sempre di più a Kadosh Baruch Hu nella creazione, si nasconde totalmente, viene fuori quello che noi chiamiamo mano. Ma non pensare che questa è la cosa importante e l'altra è solo una metafora. L'altra è la cosa importante e questa è un'ombra di quello. Questo è un risultato di quello. Al contrario. Quindi noi usiamo dei termini che derivano da qualcosa di spirituale. E non dimentichiamoci la parte semplice, che lì non si tratta di una mano fisica o qualcosa di simile. Sono due mondi che dobbiamo tenere presenti, in altre parole. Vegam poi aggiunge quello che anche abbiamo detto prima, le fische mautam vinyanam le mala bruchaniyut belokut lif'ol peulat dugmat peulat evrim shebadam shenikru al shmam. Questa è una cosa che scrive il Rambam, appunto come dicevo prima, e cioè che si usa quel termine yad, per esempio di nuovo mano, per indicare che HaKadosh Baruch Hu agisce in una maniera che un essere umano agirebbe usando la mano. Per fare quell'azione useresti la mano. Allora noi attribuiamo quel tipo di riferimento mano a quell'azione che da lui è stata eseguita. Ma non che c'è una mano nel senso semplice. Cioè il termine serve a noi per farci capire meglio ciò che ha fatto HaKadosh Baruch Hu. Esattamente. Bidiuk. Che gon, per esempio, che Moshe yada Adam peulatoli tembo davar lesulatoli kach mimeno. Per esempio, la mano dell'uomo è usata per dare al prossimo, per prendere dal prossimo qualcosa. Una delle azioni che la mano può fare. Che moken le mala. Anche nei mondi superiori usiamo il termine mano per indicare cosa? Bechinat koach ha-chesed. Per esempio, per fare un riferimento alla facoltà di HaKadosh Baruch Hu che si chiama chesed, benevolenza, le ashpia meoroid barach l'anivraim, il fatto che lui, quando si trova in una modalità di dare, di aprire un flusso di energia verso le creature, la Kabbalah lo chiama Deroa Yemina, il braccio destro. Questo aspetto del divino, si usa la metafora del braccio destro per dire qual è un'azione di dare, di apertura verso la creazione. Positività nei nostri confronti, un'apertura dall'altro, un'apertura positiva verso di noi, e così per le altre, gli altri termini che vanno ad indicare diverse parti del corpo o azioni umane, in realtà sono metafore in questo senso e anche nel senso che abbiamo detto prima, che derivano da. Mi permetti una domanda? Chavod, ma scela? Parla di Devaglio di Napoli alla mano destra, la positività nei nostri confronti. La mano sinistra invece è mi data di. Quindi a questo punto bisogna con un dato negativo oppure no, nei nostri confronti, mi data di. Allora, per spiegare la domanda di Rabbi Yosef, allora noi abbiamo fatto l'esempio, qui abbiamo fatto l'esempio di Deroa Yemina, cioè il braccio destro che indica il chesed, l'apertura positiva verso chi riceve. Questo contrapposto al braccio sinistro, che il braccio sinistro rappresenta sempre l'atteggiamento contrario, quindi la chiusura nei confronti di chi? Non so se è chiuso. Di chi riceve. Ok, limite, disciplina, rigore, giustizia, ok? Possiamo dire rigore. Allora la domanda è se questo è negativo o positivo, giusto? Questa è la domanda. Beh, è un punto molto importante questo qui, perché effettivamente, sicuramente nella sua fonte, En rayo zemile mala, non, c'è scritto, non c'è un male che viene da Kadosh Baruch Hu in maniera diretta. In altre parole, anche l'aspetto rigore, anche l'aspetto rigore è un aspetto di giustizia che fa parte della Kedushah, che non possiamo dire è negativo. Ora, la domanda è come vederlo come positivo. Cioè, va bene, non è negativo, no, come può essere positivo? Beh, in realtà non è così complicato, perché lo sa chiunque è un genitore o deve disciplinare qualcuno e così via, che l'apertura totale, quindi la mancanza del rigore, il solo braccio destro senza il braccio sinistro, se vogliamo, è in realtà un male nei confronti di chi deve essere educato o di chi riceve. È un male forse di questa generazione, no? Che c'è un'apertura, un troppo immedesimarsi dalla parte di chi dovrebbe essere educato, dovrebbe essere disciplinato, e una perdita dei parametri. Cosa sono i parametri? I parametri sono limiti. Limiti sono negativi? Assolutamente no. Limiti e rigore sono con i criteri, con i parametri voluti, dovuti e giusti, sono un bene assoluto. E quindi è chiaro che nella origine, qui stiamo parlando in mondi elevati, eccetera, è chiaro che non è una cosa negativa. Come? Qualcuno può prescindere dalla giustizia, non esiste, cioè qualcuno, la giustizia insita in lui, cioè la giustizia è insita in quella parte, qualcuno può prescindere dalla giustizia, quindi anche il Midatadin in realtà è un atto di rigore nei nostri confronti, ma è sempre la giustizia sua che sì. Sì. Ok, allora direi che ci sono diversi aspetti in questo. C'è questo aspetto che tu dici, che c'è, cioè che la giustizia è sempre da Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu non prescinde da questo. Chiaro, in altre parole, quando noi, se ho capito bene, quando noi vediamo un atto o una situazione che a noi sembra di essere di rigore, cioè una situazione che noi vorremmo dire questo non dovrebbe essere così, al tempo stesso riconosciamo Dayan HaEmet, lui è il giudice della verità e lui nella sua giustizia ha deciso così. Però al tempo stesso, quello che abbiamo studiato all'inizio è che la Torah dice: se tu sei Be'etzara, se tu ti trovi in difficoltà, rivolgiti ad Hashem che lui ti aiuti. In altre parole, la cosa è anche vista dalla nostra piccola finestra umana, con i nostri limiti, che ovviamente non possiamo vedere tutto ciò che c'è dietro, però nella nostra difficoltà non dobbiamo, diciamo, essere degli esseri insensibili alla realtà che può essere difficile, e dobbiamo invece rivolgerci ad Akadosh Baruch Hu che ci aiuti secondo quello che sono i nostri parametri, anche sapendo che, come abbiamo detto all'inizio, che la richiesta sia esaudita, questo deve decidere lui. Non è detto che se tu fai questo salmo e salti tre volte di qua e tre volte di là allora ci sarà la risposta positiva. No, tu devi fare la tua, vuol dire tu devi richiedere, fare la richiesta. Se Hashem decide di rispondere, e in che maniera decide di rispondere, questa è una sua decisione. E poi può darsi anche che tu vedi la risposta sul momento come una risposta negativa, ma può darsi che tu non sai che questo ti ha portato un altro tipo di beneficio o ti ha tolto una cosa più negativa. Questo è tutto un altro discorso, però questo dal punto di vista che la giustizia è da Kadosh Baruch Hu. Quello che noi diremo adesso più avanti, adesso non so se c'è tempo, quello che noi diremo adesso più avanti è che in realtà quando noi parliamo delle midot, cioè gli attributi, le caratteristiche spirituali attraverso le quali HaKadosh Baruch Hu opera, attraverso le quali HaKadosh Baruch Hu si manifesta, quindi parliamo appunto di Chesed, di Gevurah, di beneficenza da una parte, benevolenza dall'altra parte, rigore, disciplina e così via, sono attributi. Attributi è una cosa che è attribuita a, ma chi c'è dietro? Cioè, in altre parole, HaKadosh Baruch Hu si esprime attraverso Chesed, attraverso Gevurah. Ma HaKadosh Baruch Hu non è Chesed, non è Gevurah, è qualcosa di molto più elevato. Sceglie di esprimersi, tra virgolette, uso il termine esprimersi, sceglie di esprimersi attraverso queste facoltà, questi attributi. Ma noi non possiamo dire HaKadosh Baruch Hu è Chesed, Gevurah e 10 Sefirot. Sarebbe limitativo. Come? Sarebbe limitativo. Sarebbe limitativo e sarebbe borderline. Non voglio dire cosa. Non possiamo definire HaKadosh Baruch Hu. Ok? Quindi quando si dice Hashem non prescinde dalla Gurah, bisogna fare questa, per spiegare che bisogna fare questa, bisogna fare questo appunto, diciamo così. Questa in realtà è una cosa in cui lui entrerà adesso nella, nella prossima spiegazione. Sì. Ma il din della Gurah è della sinistra, dalla parte sinistra. È legato alla sinistra. Come mai noi ce la presentate in questo mondo, la parte più debole? Ecco perché. È un beneficio per l'uomo il fatto che scala. Anche Zacco potrebbe fare quella della Gevurah, però sì. Diciamo, sappiamo che quello di più è il massimo, diciamo, di Zacco rispetto ad Abramo. Perché quello dopo prevale sempre la vendetta di Agra a Chesed, in quel corpo. La Hamim prevale sempre, comunque sia. Anche nel Gevurah c'è un vendetta Hamim. Cosa c'è scritto nel Teilim? Chi gavar aleinu hasdo. Se noi pensiamo a queste parole, chi gavar, gavar è la parola gevurà. Ha superato. Gavar ha superato, ha reso più forte, aleinu su di noi, hasdo, il suo chesed. Cioè, non dobbiamo vedere chesed è un mondo, gevurà è un altro mondo. In realtà tutto funziona in una maniera di fusione gli uni con gli altri di questi attributi. È una questione di percentuali, di eccetera, eccetera. Però c'è anche scritto che la Gevurah si esprime anche in una chiusura della Gevurah stessa. Cioè, per disciplinare, non si può neanche esagerare nella disciplina, nel rigore. E come si limita il rigore? Con il rigore stesso. In altre parole, una delle perché prevale il chesed, come diceva Yosef? Perché prevale il chesed? Perché il rigore limita anche se stesso, in un certo senso. Cioè, tu devi impiegare il tuo rigore per limitare il tuo rigore, la tua disciplina che vorresti mettere. Leolamodai, Chazak, sì. Bene. Allora, la prossima fase qui del testo può essere abbastanza lunga, quindi non so se conviene adesso vedere tutto il testo. Però vi dico di cosa si tratta. Lui scrive Ozo tzarich ladat afshata, cioè quello che abbiamo detto finora per le afshita dvarim migash miutan, cioè per spogliare i termini dal loro senso materiale, tutto ciò è scontato, cioè è già spiegato in tante opere, soprattutto di Kabbalah. A questo va aggiunto un altro aspetto in questa afshata, in questo spogliare. E cos'è questa cosa? Quando noi parliamo, allora noi abbiamo sulla Torah, abbiamo HaKadosh Baruch Hu che viene indicato con molte maniere diverse, cioè i nomi di HaKadosh Baruch Hu. No? Abbiamo il Shem Havaya, il nome, il tetragramma, il nome ineffabile, Yud-Kei Vav-Kei, abbiamo il nome Elohim, abbiamo il nome Kel, abbiamo il nome Adokai, abbiamo il nome Shaddai, abbiamo Tsevaot, molti nomi di HaKadosh Baruch Hu. L'Alaha ci insegna che ci sono Shivash e Moce Nanim Hakim, ci sono sette nomi che rientrano nella categoria ufficiale, tra virgolette, dei nomi di HaKadosh Baruch Hu, dove c'è il divieto di cancellarli. Allora, perché così tanti nomi? Perché non può avere un nome, per semplificare, per gli amici? Come vuoi che ti chiamo? Dimmi come vuoi che ti chiamo! No? Limitativo come un nome solo. Oh, allora. E allora anche cinque nomi. Esatto, sì, esatto. Sì, infatti c'è scritto. Sette, infatti c'è scritto che la Gemara dice non si può lodare HaKadosh Baruch Hu più di quanto l'ha lodato Moshe Rabbeinu, che la Gadola Gibor Vanorà. Non si può fare più di questo, perché? Perché sennò non sai dove finire. E ogni cosa che aggiungi è limitativa. Allora che fai? Ti limiti a quello. Bene, però tornando ai nomi, In realtà c'è qualcosa dietro ancora più profondo, e cioè, come si fa a nominare una cosa che non è definibile? Se HaKadosh Baruch Hu è infinito, e il termine infinito trae un po' in inganno, perché infinito significa un inizio e non ha una fine. Anche i numeri sono infiniti, iniziano e non finiscono, ma i numeri non sono divini. Che differenza c'è tra l'infinito del divino? Che l'infinito, ripeto, non è il termine corretto in realtà. HaKadosh Baruch Hu non ha né inizio né fine. Una cosa infinita che ha un inizio. Inizio vuol dire che prima non c'è. Adesso c'è e va avanti all'infinito, tra virgolette. Ok? Ma HaKadosh Baruch Hu non... Kadmon vuol dire? È un'esistenza assoluta. Enzof vuol dire non c'è fine. Non si riferisce a questo aspetto qui, che si chiama Kadmon. Kadmon vuol dire esistente in assoluto, che è tutto un altro discorso per non approfondire anche questo, però per dire come puoi nominare allora? Dicono i nostri Chachamim che i nomi sono Lefi Ma'asaya Ninikra, io vengo chiamato secondo le mie azioni, dice HaKadosh Baruch Hu. Noi non possiamo definire lui, possiamo cercare di definire quello che vediamo negli atti effettuati da lui. È proprio nella nostra parasha di Shemot che i Midrashim parlano di questa cosa, e cioè quando dice Moshe Rabbeinu, discute con HaKadosh Baruch Hu in questa parasha per accettare l'incarico di andare in Egitto, no? HaKadosh Baruch Hu dice vai e tu sarai quello che porterà i Bnei Israel fuori dall'Egitto, vai a parlare con Parò, vai a parlare con i Ziknei Bnei Israel, i responsabili dei Bnei Israel e così via. Moshe Rabbeinu dice no, qui diverse scuse. Una delle scuse è Ve'amruli mashmo ma'omaralem, quando loro mi diranno come si chiama, che gli dirò? Che vuol dire che gli dirai? Questi sono figli di Abraham, Yitzhak e Yaakov, che vuol dire qual è il suo nome? Che non conoscono HaKadosh Baruch Hu? C'è scritto Vatal Shavatam Lifnei Hashem, loro pregarono HaKadosh Baruch Hu per la loro situazione di difficoltà. Questa è un'altra fonte prema tantorà della Tefilah, però sempre prema tantorà. Vatal Shavatam, proprio il loro tefilà. Allora, che vuol dire cos'è il loro nome? Moshe Rabbeinu stava facendo in realtà un'altra domanda. Visto che HaKadosh Baruch Hu non ha un nome nel senso semplice che questo lo definisce, bensì viene chiamato secondo il suo modo di agire in quel momento, allora Moshe Rabbeinu dice, loro mi diranno, Mashemo, qual è questo modo di agire? Non si capisce. Noi siamo in Galut, noi siamo oppressi, noi siamo perseguitati, siamo in schiavitù e preghiamo e non vediamo risposta. Come si chiama questa cosa? Non come si chiama lui, come si chiama questo comportamento? Qual è il suo nome in questo momento? Come dobbiamo chiamarlo? Aster Astir. Qui a Kadosh Baruch Hu dice e ye asher e ye, cioè io ci sono comunque, se prendiamo il senso letterale. Qual è il mio nome? Il mio nome vuol dire il mio modo di agire, il mio modo di manifestarmi in questo momento è che io ci sono. Nonostante tu, Aster, nonostante tu non mi vedessi. Però la domanda è, Mashemo, come si chiama? In altre parole, da qui capiamo che il nome di HaKadosh Baruch Hu non è un nome. È indicativo di un modo di agire. Allora quando noi usiamo, allora i Chachamim della Kabbalah, i Mekubalim, vanno a fare delle analisi, delle spiegazioni approfondite su i nomi di HaKadosh Baruch Hu, a quali midot, a quali attributi, a quale sefirot, a quale parte della mappa divina superiore corrisponde questo nome piuttosto che quell'altro nome. Allora ci spiegano, il nome Elohim, per esempio, è un nome che indica il rigore, il din. Cosa fa il din? Come dicevo prima, crea limiti, crea parametri, quindi divisione, quindi rigore, disciplina. Elohim è plurale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di HaKadosh Baruch Hu. Come facciamo a usare un nome plurale per HaKadosh Baruch Hu? Perché stiamo parlando di HaKadosh Baruch Hu così come la sua forza si esprime nella pluralità della creazione, nelle miriadi di creature diverse. Infatti c'è scritto Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. La Torah usa quel nome lì per indicare che la creazione è un grandissimo limite che HaKadosh Baruch Hu pone sulla sua rivelazione, che sia nascosta e che possano quindi esistere, tra virgolette, tutte le miriadi di creature che esistono. E questo tavolo è qualcosa che è voluto da HaKadosh Baruch Hu, e questo dolce, questo libro, e questo, ogni cosa, così come è nei suoi parametri propri, dice: io sono stato creato da HaKadosh Baruch Hu, però in una maniera di pluralità, non di unità. E quindi Elohim, plurale. E quindi Elohim è legato al mondo del Din, del rigore. Ecco un altro esempio di come rigore porta, tra virgolette, a un bene. Cioè, che vuol dire un bene? La creazione esiste grazie a questa modalità qui. Quando usiamo il termine Keil, Aleph Lamed, invece dicono i Mkubalim, è un riferimento a Chesed. È un riferimento ad HaKadosh Baruch Hu nella sua apertura verso le creature. Scusa Gabriele, sì? Il nome che dice il Kohen Gadol è... Yud Kei Vav Kei? No, è quello che dice al... Certo. A Kippur. Pronuncia il nome che normalmente non si pronuncia, no? Yud Kei Vav Kei, che noi lo vediamo... Però non lo leggiamo, lo leggiamo ad Adokai, anche se non è scritto ad Adokai. Quindi chiede la, diciamo, unità Chesed. Sì, Yud-Kei Vav-Kei sicuramente è più legato a Chesed, ma è considerato anche come qualcosa che è più elevato di tutti gli altri nomi. Rappresenta questo concetto dell'infinità di HaKadosh. Haya ovevi ie che echad, no? Mi scusi, cosa ha detto? L'essenza. L'essenza, ecco. L'essenza è la parola giusta. E infatti il nome Yud-Kei Vav-Kei di per sé, anche le stesse lettere indicano questa idea di Haya ovevi ie che echad, che HaKadosh Baruch Hu nella sua unità unisce passato, presente e futuro come se fosse un tutt'uno. In altre parole, un aspetto del divino essenziale, dell'essenza, che non è assolutamente in nessuna maniera sottoposta a ciò che possono essere delle regole più della natura, tra virgolette, o comunque di un limite. Mentre invece gli altri nomi già entriamo più nei sefirot specifiche. Quando si dice Baal Shem Tov, a cosa si riferisce? No, Baal Shem Tov non è un riferimento ad HaKadosh Baruch Hu. Perché questo Baal Shem Tov è tratto da un pasuk, da un versetto che è scritto su Kohelet. Cosa c'è scritto su Kohelet? Tov Shem mi Shem en Tov. È meglio un buon nome che un olio buono. Quindi Shem non è... Shem Tov significa una persona che ha una buona reputazione, ha un buon nome. E da qui Baal Shem... Shem Tov. Poi Baal Shem, diciamo, ha anche un altro senso, ma sempre non riferito ad HaKadosh Baruch Hu. Baal Shem significa chi è padrone del nome. In altre parole, un Chacham che sa usare, tra virgolette, i nomi di Hashem. E quando si dice nomi di Hashem, in questo contesto si intende in senso molto largo, quindi termini cabalistici, se vogliamo, concetti di spiritualità, che sa navigare questo mondo in modo appropriato per beneficio, diciamo, di chi ne ha bisogno. Quindi questo è il termine Baal Shem, ma non è riferito ad Hashem. Il punto che si vuole dire qui è così: la Gemara racconta una storia che un eretico, Min, si usa questo termine nella Gemara, fece una domanda a Rabban Gamliel riferita a questo aspetto qui della pluralità dei nomi, del modo di esprimersi che vediamo nella Torah di HaKadosh Baruch Hu. Quante Shekhinot avete? Quante presenze divine avete? No? Allora gli ha detto: guarda la luce del sole. Se tu entri in una grande sala dove ci sono molte molte finestre, la luce del sole entra da questa finestra, da quella finestra, da quell'altra. E dice: ma quanti soli ci sono? No, nessuno farebbe una domanda così stupida. Il sole è uno e i canali sono molti. Il punto sarebbe quindi che quando noi parliamo di nomi, diciamo Baruch Atah Hashem, e usiamo un nome di Hashem, e studiamo Elohim e usiamo un altro nome di Hashem, e così via, Non bisogna dimenticare che stiamo parlando sempre di Akadosh Baruch Hu, così come lui è nella sua essenza. E questi nomi indicano il comportamento, ma non lui. Seconda fase nelle afshit, nel spogliare le cose dalla loro materialità, quindi non è solamente quando noi parliamo di termini antropomorfici, che lì uno può essere tratto completamente in errore e dire mano di Dio, testa di Dio e così via, ovviamente mai sia intenderlo nel senso letterale, e quello l'abbiamo spiegato prima, ma anche quando parliamo dei nomi di Akadosh Baruch Hu, non è che uno prega a Elohim e non prega a Shem Kel, Chas v'Shalom. Uno prega direttamente ad Akadosh Baruch Hu, poi come deve essere indirizzata, questo è il francobollo che ci si mette sopra. Però è un altro discorso, è la finestra nella quale entra, è il canale nel quale viene quel flusso. Ma dietro a questo c'è solo Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, Yachidu Miuchad. Ok, grazie davvero. Kazak Baruch. Oh, bella.